Una buona serata, un buon pomeriggio, buona mattinata, dipende insomma da quando state ascoltando 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia. Se siete in diretta, appunto, beh, allora senz'altro una buona sera, non dico ancora buonanotte, insomma, anche perché buonanotte mi verrebbe da dire buonanotte al secchio qua, visto come stanno andando le cose, anche se poi tutto sommato questo 451 che si chiama Port to Port, non a caso con un'immagine del porto di Trieste, anche quella probabilmente non a caso, beh, alcune cose si muovono perlomeno in termini appunto di scioperi. E l'altro giorno insomma il sindacalismo di base finalmente unito per una giornata porto di Trieste insieme a altri porti appunto per la giornata del 15 giornata che vedrebbe insomma questa sorta di patente biopolitica legata appunto a questo codice verde. C'è qualcuno che evidentemente critica la faccenda e non da destra, da tutt'altra parte, anzi anche qua non strumentalizzando facilmente le punte dell'iceberg, perché insomma è ben da mesi che qualcheduno sta dicendo che la faccenda non è da leggere appunto in termini così unitari e di bontà insomma della governance, perché non si tratta neanche più di governo, ma si tratta quasi di una sorta di commissariamento, quello che insomma stiamo vivendo nel corso dei nostri giorni. Covid, post-Covid, anche qua insomma, poi che spiegassero insomma in che diavolo di situazione siamo. E comunque di fatto insomma tramite una bella patente verde, ecco, un bel controllo, ecco, rispetto ai lavoratori che evidentemente insomma si auto-organizzano e cercano espressioni anche piuttosto forti anche in termini appunto di generalizzare la lotta, chiedendo appunto di togliere questa bella patente verde e poi e un ennesimo ulteriore, potremmo dire anche per certi versi una sorta di salto di qualità insomma sulla discriminazione di fatto che fa questo codice e questa patente verde. E poi ripeto sottolineo un ulteriore controllo sui lavoratori, oltre che appunto in termini sociali e quindi biopolitici. Da queste parti poi tra l'altro non ho mai amato particolarmente parlare di biopolitica, però a questo punto qua, visto che dopo un anno e mezzo siamo arrivati a livelli di Turkmenistan, parliamone, perché forse è il caso di farne, di chiarire insomma che anche insomma come dire unitarietà così finte, fasulle dietro insomma una sorta di ristrutturazione ulteriore liberistica con tanto insomma del nostro banchiere che appunto non vede altro che appunto liberalizzare la faccenda con il plauso dell'Europa ovviamente più liberista, poi chiaramente insomma di Confindustria che chiaramente plaude come a questo bella patente verde, così avrà modo insomma di controllare ulteriormente, poi magari restringiamo anche le manifestazioni, no? Facendo insomma il solito discorsetto degli opposti estremismi, eccetera, eccetera. Va bene signori, io vado via, 451 scherzo, 451 frammenti sonori, porto port, e anche qua insomma porti musicali innovativi in termini di approdi, di tentativi insomma di prendere il largo e poi arrivare anche a una e per molti versi i personaggi di questa sera ci sono anche riusciti a arrivare appunto dentro un porto, ma non con l'idea poi di rimanere lì, ma con l'idea di collegarsi poi ad altri porti, e quindi continuare una navigazione che evidentemente insomma è incessabile in termini di ricerca, perlomeno in termini di attitudine. Ovvio che poi come dire, ci sono anche qua dei limiti dati da creatività che si perdono insomma nel corso del tempo, ma questo non dice nulla in termini appunto di movimento, appunto di navigazione, oppure perché no, appunto prendendo per buona la parola movimento, la movimento che ci dà anche quella appunto del porto da porto a porto. Beh, andiamo a trovare Moritz von Oswald Trio, se pensiamo insomma a com'era definita per molti versi la techno fino a qualche anno fa, insomma, per la maggior parte dei casi, insomma, musica funzionale, ecco, per quanto insomma anche lì il rave ha rappresentato. Rappresentato forme di alterità che magari per molti versi vengono anche riscoperte anche in queste situazioni, perché no, appunto a discoteche aperte, chissà, anche qua un'altra constatazione. Mi sembra che insomma da qualche altra parte si siano fatte anche lì delle forme di auto di feste, di rave auto-organizzati, ma lì tant'è che insomma non andava bene. Figuriamoci se insomma l'auto-organizzazione va bene, l'autonomia e staccarsi appunto da quelli che invece sono i centri di potere. In questo senso insomma la techno anche quella di Maurizio all'epoca degli anni 90, musiche decisamente futuristiche, innovative, e poi trasformandosi anche in elementi elettroacustici, quindi facendo dialogare anche le sperimentazioni elettroniche più ardite, se poi pensiamo insomma che von Oswald viene dalla Neue Deutsche Welle, quindi dalla wave tedesca, quella anche più sperimentale. Allora riusciamo anche a tracciare porto da porto a porto una navigazione piuttosto ardita che porta ora insomma Moritz von Oswald con il suo trio a un dissenso. Non è un caso neanche questo che iniziamo questo 451 porto port con Dissent di Moritz von Oswald Trio, e una sorta di elettroacustica tecnoide con tanto appunto di disegno alterato, se non a volte proprio con forme sperimentali antagonistiche, potremmo dire, per molti versi appunto come linguaggio musicale tout court. Cioè, andiamo appunto ad ascoltare dal suo Chapter 6 e poi il suo Preface. Thank you. Moritz von Oswald Trio, beh, un trio tra l'altro formato da chi si occupa fondamentalmente di lavori jazz o parajazzistici, potremmo considerarli tali per capacità, insomma, dimostrata appunto anche attraverso questa collaborazione, ovvero Heinrich Goeberling, e in questo caso Lorraine Hallo invece, che si occupa di faccende più sintetiche e con anche se forse con una specie di sequela di Maurizio, oltre che techno, insomma, tedesca, veniva chiamata anche Heroin House. E, beh, per certi versi Lorraine Hallo, una decina d'anni dopo, beh, si è inventata una specie, insomma, di post Heroin House, ovvero un house talmente deforme, talmente decostruita, ma con quel vagheggiamenti psichedelici, anche per certi versi legati a un disegno tutto suo ontologico, quindi di memorie ripercorse, reinventate, che quindi prende poi le mosse verso sonorità così molto molto variegate e potremmo dire anche pluriforme, tant'è che appunto arriva la collaborazione con Moritz von Oswald per questo suo trio e per questo Dissent, disco notevolissimo appunto del 2021, come dicevo prima, in compagnia anche di Heinrich Goeberling. E se parliamo di elettroacustica, se parliamo di navigazioni, di appunto partenze dai porti per raggiungere altri leader, appunto altri porti, beh, c'è un duo barese particolarmente interessante, Giovanni Todisco e Giuseppe Candiano, anche qua elettroacustica che si muove anche attraverso un'elettronica che, se non è tecnoide, comunque decisamente tribale in alcuni aspetti e in alcuni luoghi musicali che appunto vanno a trovare trama o ma potremmo dire anche così, visto che manca insomma la vocale, e duo appunto italiano barese che hanno anche un approccio piuttosto legato a quello che può essere una materia stocastica, matematica, come quella di Yannis Kazanakis, quindi attraversando anche proprio fisicamente anche l'Adriatico, appunto portandosi verso una Grecia sperimentale, una Grecia insomma del grande compositore, e poi appunto con questa capacità di fondere questa specie di primitivismo anche legato al, anche addirittura alla strumentazione, all'uso della strumentazione elettronica, se pensiamo insomma a questo noise che attraversa l'elettroacustica tribaloide, ecco, di TRRMA, così insomma lo dico lettera per lettera, e con una produzione tra l'altro anche piuttosto interessante, ma avremo modo di sentirla tra poco. Andiamo appunto a sentirci Tramà, oppure, anche perché c'è un accento finale su là, comunque un gioco insomma di parole, anche qua forse una sorta di depistamento, di costruzione anche linguistica che fanno appunto i nostri due, che tra l'altro viaggia di pari passo con Awand e con Murt, anche qua giochi consonantici vari, che ci danno anche un'indicazione sul suono di questo bel progetto. Beh, con Moritz von Oswald, Trio, Trama, poi Rashad Becker, e adesso vi spiego anche come si collegano i tre porti, anzi, meglio dire, il secondo e terzo porto, ecco, in questa punta di navigazione da porto a porto, con chiaramente anche in testa, insomma, come dicevo all'inizio, quello che è il porto di Trieste, quello che saranno i collegamenti con i vari porti dal 15, in posizione, insomma, per togliere questa certificazione, questa patente, questa schifezza verde, ecco, diciamocela tutta. E beh, da uno all'altro, dal von Oswald Trio al Trama, e a Rashad Becker, come appunto dicevo, dal primo al secondo porto, va un po' sulle onde dell'elettroacustica, delle sperimentazioni, anche qua, volendo, tecnoidi. Anche se con Trama abbiamo sentito, insomma, senz'altro più legate a un approccio primitivista, se invece von Oswald utilizzava una sorta di decostruzione, invece per Trama c'è un paesaggio ritmico decisamente legato al noise, alla una costruzione anche e a un crescendo che li avvicina anche a certe forme di industrial per alcuni aspetti. E poi c'è la produzione, questo ci spiega, insomma, secondo e terzo porto, e quella di Rashad Becker con Trama, ma Rashad Becker, uno degli ingegneri del suono più attenti e anche più sperimentali, come tanta musica che poi è riuscita a passare da appunto porto a porto e si è trasformata, anche ricordando, insomma, un altro grande dubbista, oltre a von Oswald, tra le varie cose che ho detto legato a lui, c'è anche il dub. Beh, la perdita di Perry, beh, è stata una perdita importante, fondamentale, insomma, per uno che veramente ha fatto prendere le mosse e la navigazione veramente a tanti progetti, uno dei grandi innovatori e soprattutto un personaggio incredibile per quanto riguarda l'utilizzo dello studio come strumento, ma uno strumento anche gigantesco, non un semplice strumento inteso dentro una tessitura, ma proprio lo strumento principale per fare musiche, tra l'altro tra le più visionarie, oltre che tra le più terrene, se pensiamo, insomma, a quanto sia terreno la matrice roots, insomma, del dub di Lee Perry, che poi è passato attraverso veramente mille lidi da tanta techno a tanta elettronica sui generis, fino ad arrivare anche a avere proprie sperimentazioni già di sé, insomma, è un alieno, una musica afrofuturistica nel vero senso della parola, quella di Lee Perry, e l'attraversamento appunto dubbistico fatto dal grande giamaicano, che attraversa e insegna e informa anche personaggi come Rashad Becker, che utilizzano lo studio come strumento di generale di tessitura musicale, con lavori anche appunto di editing e di masterizzazione, non nel senso, insomma, piccolo, ma insomma quello più largo del termine. Infatti, per questo Trama, album omonimo dei nostri appunto, del nostro duo italiano, beh, c'era proprio dietro il mixer Rashad Becker, per fare un lavoro tra l'altro egregio, e l'abbiamo preso da una compilation, Sacred Rage, questa rabbia sacra, che è una raccolta a fondi, una compilation che raccoglie fondi per l'emergenza libanese, quindi con una certa attenzione e tensione. Non è un caso, insomma, anche qua che il titolo si chiami Sacred Rage, rabbia sacra, una certa attenzione e tensione verso quelle che sono situazioni emergenziali. Poi tra l'altro potremmo parlare di emergenze ed emergenze anche qua, no? Come poi vengono viste in maniera differente e prendono forma in maniera differente le emergenze, sempre con il dubbio, insomma, che diventino magari da stati di emergenza a stati d'eccezione. C'è anche una certa attenzione verso proprio anche sperimentazioni legate a musiche che vanno appunto dentro le radici sonore di quel Libano così più immaginativo che insomma reale nel senso, insomma, più stretto del termine, probabilmente partendo da un dato che potremmo, insomma, considerare così generalistico, folk, che poi appunto diventa territorio perché no, da navigazione appunto sperimentale per un personaggio come Rabid Benaini, e questo splendido lavoro di costruzione di dilatazione ritmica che Gadab appunto preso da sembra appunto la compilation che è del 2021, quella insomma che abbiamo sentito prima con Madra Quage di Rashad Becker, e che adesso appunto abbiamo trovare con Rabi Benaini. Thank you. Beh, è un gioiello questo pezzo per senso appunto di dilatazione, di entrare veramente dentro la struttura ritmica e ricavarne questi grumi di suono così incredibile, veramente andando anche così a largo, se pensiamo a questa metafora, insomma, quella di 451, porto porto, a porto a porto, perdendosi anche, perché no, e quindi così trovandosi e poi magari in qualche porto anche sconosciuto, magari perché no, anche inventato, illusorio, forse anche come le musiche che potremmo andare a trovare per finire questa ora di 451 frammenti sonori, beh, andando a trovare uno storico progetto che è l'EF, e quel senso poi di deriva, insomma, che ha buona parte delle loro musiche, derive situazionistiche che bypassano, qua ci vuole, insomma, bypassano molte strutture o similtali per approdare a musiche che potrebbero partire da porti legati a quelle che sono state, insomma, le innovazioni elettroniche legate alla acid house, alla prima ambient della fine degli anni Ottanta, e per poi trasformarsi in una sorta di operazione politico-musicale, sociologica e quant'altro, situazionista in primis, di KLF, anche chiamati così alla lunga Copyright Liberation Front, e quindi anche qua un lavoro contro la proprietà, in questo caso la proprietà intellettuale, quella che era legata ai sample, quindi musiche che non si potevano toccare perché appunto legate poi fondamentalmente alla proprietà delle major, un lavoro eccezionale quello di un dislavoro, anzi per molti aspetti quello di KLF, fatto nel corso degli anni. Tra l'altro potreste anche cercare un libro, il primo, se non sbaglio, il primo libro di Nero, proprio dedicato alla storica formazione situazionista inglese KLF, e appunto lasciandovi così attraccare a questo porto, sicuri, insomma, che attracco non ce n'è, e con KLF e appunto cercando, insomma, di ancora farvi, e perché no, di farmi disperdere, insomma, anche a largo per cercare, insomma, nuovi lidi. Max Macchia vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Sì, sempre con grandi punti di domanda, ma anche qualche punto esclamativo, perché no, magari l'abbiamo anche creato noi in questa oretta di 451. Ciao, e non fate bravi a sto giro, ve lo dico.